Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La Russia ha preso il controllo della Crimea, attesa per le prossime mosse di Putin. La Gran Bretagna dice Mosca dovrà pagare un prezzo. L'Italia, proviamo a tenere aperto il dialogo. La banca centrale russa aumenta i tassi di 1,5 punti, ma non basta a frenare il crollo del rublo e la caduta della borsa. Giù tutti i listini. Milano perde il 2,5%, Francoforte 3 punti percentuali. Un grazie a Maradona, Fellini, Scorsese e i Talking Heads. Sorrentino cita le sue fonti di ispirazione nel ricevere l'Oscar per la grande bellezza come miglior film straniero. Nel 2013 nuovo picco nel rapporto tra debito pubblico e PIL, è al 132,6%, in lieve calo la pressione fiscale, scendono bruscamente i consumi delle famiglie, anche quelli alimentari del 3,1%. Governo ancora in tensione sulla nomina di Gentile a sottosegretario, il senatore NCD avrebbe fatto pressioni perché un giornale non pubblicasse la notizia di un'indagine. Una parte del PD preme perché lasci, i 5 Stelle preparano una mozione di sfiducia. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete potete contattarci sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, via SMS durante la trasmissione al 349-238-6666. Per critiche o anche eventualmente per complimenti c'è effettogiorno@radio24.it, il nostro indirizzo email. L'apertura è quasi d'obbligo per la situazione in Ucraina, dove gli aggiornamenti si susseguono di ora in ora, naturalmente soprattutto dal punto di vista diplomatico. La Russia ha fatto sapere di non volere una guerra con Kiev, mentre le truppe in Crimea in realtà stanno avanzando, e c'è un impatto di tutto questo sui mercati. C'è stato questa mattina un crollo vero e proprio del rublo, che è arrivato a perdere circa il 10% sul dollaro. La Banca Centrale Russa ha cercato di limitare i danni alzando il tasso di interesse dell'1,5% e portandolo al 7%, ma senza grandi risultati. Va molto male la borsa russa e, come vi dicevamo nei titoli, vanno molto male anche i listini europei. Poi ne torneremo a parlare naturalmente nello spazio dedicato ai mercati. Alle 13.30 il FTSE MIB cede il 2,4%, Francoforte cede il 3%, Parigi il 2,5% e Londra l'1,85%. Ma vediamo di fare il punto sulla crisi, soprattutto dal punto di vista diplomatico, che è l'elemento essenziale in questo momento, con la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Brevemente, subito, alcune notizie però di cronaca. Lo dicevi anche tu, le guardie di frontiera hanno denunciato che i militari russi continuano a sbarcare in Crimea in maniera molto massiccia. Nelle ultime 24 ore, sostengono, sono atterrati 10 elicotteri da combattimento, 8 aerei da trasporto, senza che Kiev fosse informata, con 72 ore di anticipo previste rispetto all'accordo bilaterale sulla flotta russa del Mar Nero. Presunti soldati russi, poi armati con mimetiche prive di segni di riconoscimento, avrebbero circondato il centro di intelligence della Marina Militare Ucraina a Capo Fiolent a Sebastopoli e il centro di approvvigionamenti lì vicino. I soldati ucraini si rifiutano di deporre le armi e questo è quanto fa sapere l'agenzia Unian. Sul versante diplomatico la situazione è molto delicata, si rischia una spaccatura in Europa, la divisione è reale, questo è quanto ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri tedesco Steinmeier. Per quel che riguarda il vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione, questo si dovrebbe tenere, secondo fonti di Bruxelles, giovedì. Da pochissimo ha parlato il portavoce della cancelliera Merkel, il quale ha fatto sapere che Putin non è contrario al gruppo di contatto sotto l'egida dell'OSCE. Il governo tedesco crede ancora che si possa arrivare ad una soluzione politica, che resta, secondo Berlino, l'unica strada ragionevole. Il portavoce della Merkel però è riuscito a svicolare più volte sulle domande in merito alle sanzioni. Più o meno contemporaneamente, da Kiev il ministro degli esteri britannico Hogg ha affermato che quella in corso è la peggiore crisi del XXI secolo, che richiede tutti gli sforzi diplomatici per essere risolta. Ricordiamo che Hogg si trova a Kiev per incontrare le massime autorità del paese e ha comunque sottolineato che Mosca dovrà pagare un prezzo per il suo intervento militare in Crimea. Intanto questo pomeriggio il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov a Ginevra, dove entrambi partecipano al Consiglio dei diritti dell'uomo, sullo sfondo ovviamente della crisi in Ucraina. dell'Ucraina. Lavrov, sempre questa mattina, ha accusato le nuove autorità di Kiev di attaccare le minoranze e ha denunciato la presenza nelle città ucraine di estremisti. Per il momento è tutto. E grazie alla nostra Valeria De Rosa. Noi, naturalmente, di tutto questo, del punto diplomatico, della situazione, soprattutto dei rischi di estensione del conflitto, torneremo a parlare più avanti. Nel frattempo, veniamo alla posizione del governo italiano, che appena insediato forse si aspettava tutto meno che questa grana, questo problema internazionale. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto, di poco fa una breve dichiarazione del Presidente della Repubblica Napolitano. Mi pare che il governo abbia assunto una posizione molto attenta a tutti gli aspetti e ai rischi della situazione. Una posizione, ha detto il Capo dello Stato, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola dei Servizi, che ha trovato importanti convergenze a livello europeo, in particolare con la Germania. Capo dello Stato che dunque sta seguendo con molta attenzione l'evolversi della crisi e che evidentemente sposa con assoluta convinzione la linea del governo. Una linea che vede l'Italia muoversi di concerto soprattutto appunto con la Germania e dunque una via del dialogo che eviti la rottura con il Cremlino. Posizione ribadita dal ministro degli esteri Federica Mogherini questa mattina al suo arrivo al Consiglio straordinario di Bruxelles. Allora sentiamo la sua voce. Andiamo a lavorare, stiamo provando a tenere aperta la strada del dialogo come avete visto nei giorni scorsi. Speriamo di riuscire a garantire una soluzione politica e diplomatica della crisi. Ci vediamo, spero, più tardi, quando finiamo. Io riferirò già domani in Parlamento. L'ancoraggio agli alleati transatlantici e il desiderio profondo di non lasciare nulla di intentato, questa è la stella polare, aveva detto del resto ieri Renzi che aveva presieduto una riunione d'emergenza insieme ai ministri degli esteri e della difesa, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marco Minniti, al direttore dei servizi Giampiero Massolo. E tra l'altro una dichiarazione proprio di questi minuti di Marco Minniti, appunto sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi: al momento non c'è un'emergenza energetica, ma la questione è delicata e la monitoriamo anche a causa del combinato disposto con la situazione in Libia, ha detto Minniti, sempre a margine di questa inaugurazione dell'anno accademico della Scuola dei Servizi. A te, Simone. E grazie. Alessandra Schepisi, come si diceva, ci torneremo più avanti per un'analisi. Adesso cambiamo decisamente argomento e andiamo negli Stati Uniti per una notte degli Oscar che, come sapete, ha premiato la grande bellezza, dunque il racconto di questa notte con la nostra Marta Cagnola. È stata la notte della grande bellezza e per noi la notte della grande gioia. And the Oscar goes to The Great Beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Grazie alle mie fonti di ispirazione Federico Fellini, Martin Scorsese, Diego Armando Maradona, ha detto Paolo Sorrentino sul palco del Dolby Theatre. Un ringraziamento singolare che poi ha spiegato appena arrivato nella press room. Sono quattro campioni nella loro arte che mi hanno molto condizionato, mi hanno insegnato tutti che cosa vuol dire fare un grande spettacolo. L'Italia dunque torna a vincere a Los Angeles dopo 15 anni e deve essere una nuova strada per il cinema italiano. I don't know if the Italian industry is doing... Non so se l'industria italiana del cinema stia già tornando ad aprirsi al mondo, ha detto Sorrentino. Penso che debba fare di più, da troppo tempo facciamo film solo per un mercato locale. Spero che questo premio sia di stimolo per il cinema italiano a fare storie che possano andare ovunque. Ma nella serata speciale per l'Italia con l'Oscar a Paolo Sorrentino è 12 anni schiavo il miglior film per l'Academy. L'atmosfera si è fatta seria quando il regista Steve McQueen ha ritirato la statuetta. Everyone deserves not just to survive, but to live. Tutti meritano di vivere, non solo di sopravvivere. Questa è la lezione di Solomon Northup, ha detto McQueen, ricordando il protagonista della storia vera del film, il talentuoso violinista nero che venne rapito e portato in Louisiana, dove venne ridotto in schiavitù. Poche le sorprese sui migliori attori. Vince Matthew McConaughey per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club, strappando, come previsto, l'Oscar a Leonardo DiCaprio, che per la quarta volta non fa centro. Cate Blanchett ritira la statuetta come miglior attrice per Blue Jasmine di Woody Allen. Tiepidi durante i ringraziamenti dell'attrice, gli applausi per il regista. I migliori non protagonisti: Jared Leto, che dedica l'Oscar alla mamma e dedica un pensiero speciale all'Ucraina, e la bellissima Lupita Nyong'o, sempre in 12 anni schiavo, per lei un ringraziamento che passerà alla storia. When I look down at this golden statue, may it remind me and every little child that no matter where you're from, your dreams are valid. Thank you. Infine, da segnalare il record di statuette che va a Gravity, 7, anche quella di miglior regista ad Alfonso Cuarón, il premio come miglior film d'animazione a Frozen e la foto, il selfie di Ellen DeGeneres, che è diventato la foto più retweetata della storia. E così la cronaca della notte degli Oscar, anche di questo torneremo a parlare più avanti, e soprattutto di un Oscar per un film su Roma in una fase nella quale la capitale vive non poche difficoltà. Dalle stelle di Hollywood alle difficoltà, torniamo coi piedi per terra, della nostra economia. Un debito che pesa sempre di più sulle spalle di ogni generazione di italiani. Ha raggiunto il 132,6%, il rapporto debito-PIL italiano nel 2013. Si tratta del livello più alto dal 1990. Nel 2012 si era fermato a quota 127% del PIL. E scende anche il prodotto interno lordo sotto i livelli del 2000 di quasi 2 punti percentuali. Esattamente come l'anno precedente, invece, il rapporto tra deficit e PIL. Sul fronte della domanda calano di poco più del 2% i consumi nazionali. Aumentano le esportazioni, ma dello 0,1%. Le importazioni diminuiscono di quasi 3 punti percentuali. Segno meno in quasi tutti i settori, con cali di circa il 6% per le costruzioni e del 3% per l'industria. Unica lievissima consolazione: giù la pressione fiscale nell'anno passato, quasi al 43,8%, in diminuzione dello 0,2% rispetto al 2012. Ma non si inverte il trend dei consumi. Giù la spesa delle famiglie, anche se del 2,6% rispetto a un crollo del 4% nel 2012. Colpiti gli alimentari, ma si taglia soprattutto su salute e abbigliamento. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto qualche suggerimento all'esecutivo in termini di politica economica arriva sul Sole 24 Ore di oggi con uno sguardo all'estero. Se l'Italia guarda alla Spagna per il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione, anche per gli altri dossier sul tavolo del governo, in Europa ci sono numerosi modelli da seguire. Dall'inchiesta del Sole 24 Ore in edicola oggi, emerge che la Danimarca è riuscita a ridurre il cuneo fiscale di oltre 5 punti in 10 anni e in paesi come Irlanda, Gran Bretagna e Olanda il costo del lavoro è inferiore al nostro. Per la lotta alla disoccupazione spicca la Germania, mentre sugli ammortizzatori sociali fanno scuola i paesi scandinavi. La Finlandia primeggia per l'attenzione alle nuove tecnologie nella scuola e per l'ottima preparazione dei docenti. E sul fronte della lotta alla burocrazia è ancora una volta la Danimarca a staccare tutti. Ma arrivano insegnamenti anche da altri allievi di solito meno diligenti, come Spagna e Portogallo, sulle iniziative per attirare investimenti. Insomma, copiare dagli altri a volte conviene. Francesca Barbieri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo dal punto di vista dell'agenda economica, mentre invece l'agenda politica impone una riflessione all'esecutivo sulla figura di un sottosegretario sul quale si addensano nubi. In realtà non sono un sottosegretario, ma il sottosegretario Gentile in particolare, Elisabetta Fiorito. Ciao, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, perché il Movimento 5 Stelle prepara la mozione di sfiducia nei confronti di Antonio Gentile, sottosegretario alle infrastrutture del nuovo centrodestra, accusato di aver bloccato la stampa del giornale L'Ora di Calabria. Il quotidiano conteneva notizie su un'inchiesta a carico di suo figlio. Insorge il PD, da ieri bersaniani chiedono al testa di Gentile, oggi si aggiunge il senatore Francesco Russo, che si associa anche all'appello di 5 direttori dei giornali, tra cui quello del Sole Roberto Napoletano, per chiedere le dimissioni di Gentile. Il procuratore di Cosenza Dario Granieri rivela poi che l'inchiesta sulla vicenda è formalmente aperta, anche se non si sa se ci sono già indagati. Nel frattempo Matteo Renzi temporeggia, scusate il gioco di parole, perché aspetta la decisione di Angelino Alfano, mentre Gentile continua a proclamare la sua innocenza e a parlare di macchina del fango. A Montecitorio poi approda l'Italicum, quindi la nuova legge elettorale. Forza Italia mette le mani avanti, via il lodo Lauricella o salta l'accordo, dice Renato Brunetta, riguarda la norma che aggancia l'entrata in vigore della legge alla riforma costituzionale sul bicameralismo e che di fatto allungherebbe la vita del governo Renzi. Per Brunetta Forza Italia non ha nessun interesse a fare le riforme istituzionali, ma vuole andare subito al voto dopo l'approvazione della legge elettorale. Insomma, due grane per Renzi, Simone. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prosegue l'arrivo in Crimea di forze russe. Le guardie di frontiera ucraine hanno detto che nelle ultime 24 ore sono atterrati in Crimea 10 elicotteri da combattimento e 8 aerei da trasporto. Attesa per le prossime mosse di Putin, la Gran Bretagna dice che Mosca dovrà pagare un prezzo. L'Italia dice: proviamo a tenere aperto il dialogo. E queste tensioni si ripercuotono sui mercati finanziari. La Banca Centrale Russa ha aumentato i tassi di 1,5%, portandoli al 7%, ma questo non è bastato a frenare un vero e proprio crollo del rublo, che è arrivato a cedere il 10%, e la caduta delle borse, anche quelle europee. E Milano perde oltre 2,5 punti percentuali. Un grazie a Maradona, Fellini, Scorsese, i Talking Heads. Sorrentino cita così le sue fonti di ispirazione nel ricevere l'Oscar per La grande bellezza: è il miglior film straniero di quest'anno. Nel 2013 nuovo picco nel rapporto tra debito pubblico e PIL, è al 132,6%. Il governo ancora in tensione sulla nomina di Gentile a sottosegretario. Il senatore NCD avrebbe fatto pressioni perché un giornale non pubblicasse la notizia di un'indagine. Ed è proprio di questa notizia che parliamo dunque in apertura di questa seconda parte. Abbiamo al telefono Vincenza Bruno Bossio, deputata del PD, della componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, e tra l'altro calabrese, che quindi Gentile lo conosce bene. Benvenuta. Buongiorno, mi dicono tra l'altro che è su una delle maledizioni di questo paese, ossia la Salerno-Reggio Calabria, quindi speriamo che regga la linea tutto sommato. Allora, regge, ammodernata abbastanza, pare che ancora c'è molto da fare. Allora senta, abbiamo letto di questa sua telefonata, che ormai risale a parecchio tempo fa, no? Nella quale, parlando appunto del sottosegretario Gentile, dice... Mi corregga se sbaglio la pronuncia, kill in un mafioso, no? Più o meno. Ma io non parlo così, mi sembra strano. Io questa telefonata, tra l'altro, non l'ho mai sentita, perché comunque non era nelle carte delle indagini, ma se dice questo probabilmente è vero. Sicuramente ho detto una cosa simile. Ha detto una cosa simile perché? Ma all'epoca, perché ero abbastanza, diciamo così, avevo delle obiezioni sul metodo con cui Gentile faceva politica. Naturalmente non penso che lo sia effettivamente un mafioso, però c'è una cultura politica in Calabria, che è quella della soggezione, che secondo me va modificata, e in questi anni Gentile, Tonino Gentile in particolare, l'ha, diciamo, incarnata. Ed è questo il vero problema. Non è cosa intende per cultura politica della soggezione? Ma nel Mezzogiorno purtroppo c'è un ritardo di sviluppo enorme, ma è un cane che si morde la coda. Il ritardo di sviluppo nasce anche dal fatto che gli altri poteri, economico, sociale e certe volte anche quello giudiziario, si trovano spesso sottoposti da questo magma potente della politica, cioè la casta viene vissuta come antipatica, così come nel resto del paese, ma nello stesso tempo ancora si ha paura che il politico non ti possa aiutare, non ti possa agevolare. Ecco, noi, alcuni di noi si stanno battendo perché questa cultura cambi. Insomma, io non mi sento un politico potente, giusto per citare, diciamo, la mia situazione. Senta, allora, la vicenda alla quale facciamo riferimento, lo chiariamo anche per gli ascoltatori, è il fatto che Antonio Gentile, senatore del Nuovo Centrodestra, avrebbe bloccato tramite la sua conoscenza con lo stampatore del giornale una edizione dell'Ora della Calabria, con quotidiano calabrese, nella quale si riferiva di un'inchiesta che riguardava il figlio. Le sembra, come dire, nello spirito dell'uomo che conosce, dell'Antonio Gentile che conosce? Ma sicuramente nello spirito del metodo di cui le ho parlato prima, cioè ora probabilmente le prove della telefonata fra De Rosa e Gentile, in cui Gentile chiede a De Rosa di fare questa telefonata a sua volta, non so se usciranno mai, ma che ci sia, diciamo così, nelle parole di De Rosa proprio la testimonianza plastica di quello che le ho detto, è molto evidente. D'altra parte, così come a suo tempo, ahimè, me. Fu usata la mia intercettazione d'allora per generare una sorta di gogna mediatica, ripeto, che poi non ha avuto nessun risvolto giudiziario. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una vicenda di questo tipo. A me non piacciono le intercettazioni telefoniche usate, diciamo, senza che chi in quel momento sta chiamando sa che poi diventerà pubblica, ecco. Qui si spiegano anche i dialetti spesso. Però sicuramente il dato c'è che questo signore ha chiesto di non pubblicare l'articolo e che, guarda caso, la rotativa poi quella notte, diciamo, si sia rotta. Si deve dimettere Gentile, secondo lei? Ma secondo me sì, ma soprattutto Renzi, io dico, non può sopportare che nel suo governo, in un governo che, per quanto non un governo del PD, ma un governo che vuole essere un governo politico, che vuole fare le riforme più importanti che non si sono fatte negli ultimi 20 anni, si tenga dei personaggi che sono l'incarnazione di questi ultimi 20 anni. Lei ha detto un modello medioevale, quello di Gentile. Thailandese quasi, medievale thailandese, cioè nel senso in cui probabilmente anche il dissenso, diciamo, non si sopporta nemmeno il fruscio del dissenso, non dico la voce alta. Una figura losca, secondo lei? No, non voglio offendere nessuno, non voglio dare giudizi morali, tra l'altro io non sono, diciamo, assolutamente, io sono una garantista, ognuno è libero di fare nella sua vita quello che vuole, quindi di avere i suoi comportamenti individuali, ma sicuramente nella cosa pubblica bisogna che l'etica della responsabilità rispetto al cittadino che ti elegge deve essere garantita. Il vero problema è che abbiamo una legge elettorale e che rischiamo ancora di fare una legge elettorale in cui questa scelta del cittadino non è, diciamo, prevista, e questo è un altro vulnus del governo Renzi se non lo fa. Grazie a Vincenza Bruno Bossio, deputata del PD in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Saluto Aldo Ferrari, docente di storia e istituzioni dell'area turco-caucasica e di storia della cultura russa all'Università Ca' Foscari di Venezia, ed è anche ricercatore dell'ISPI. Ferrari, buongiorno. Buongiorno a voi. La prima domanda che le voglio fare, naturalmente con lei vogliamo parlare della situazione in Ucraina e della situazione in Crimea, è se secondo lei, stanti le cose e posta la difficoltà oggettiva di fare delle previsioni in una situazione che, come si dice in gergo, è fluida, c'è il rischio di un'estensione di questi focolai di conflitto? Ma il rischio purtroppo c'è, è una situazione estremamente tesa nella quale la Russia sta agendo con forza, anche con prepotenza, possiamo dire, a difesa dei suoi interessi legittimi o perlomeno ritenuti tali. Però è una situazione troppo delicata per poter seguire questo corso. È assolutamente necessario che la Russia, l'Ucraina, l'Unione Europea si mettano a parlare seriamente, fermando questa escalation che è veramente preoccupante. Secondo lei il fatto che tra l'altro si stiano addensando delle tensioni di mercato sulla Russia molto pesanti, con un deflusso di capitali reso evidente dal crollo del rublo, può far sentire Putin, per come lei conosce la Russia e l'ha studiata, quasi in dovere o in necessità di muovere con ancora maggiore violenza e energia in Ucraina? Ma guardi, io credo che qualcosa di simile si è già verificato all'epoca della guerra russo-georgiana nel 2008. Putin è in grado di padroneggiare queste situazioni, però anche quest'uomo, sinora quasi sempre vincente in politica estera, può commettere degli errori, può sopravvalutare la propria posizione e le proprie chance. Mi sembra che la Russia in questa maniera corra un rischio troppo grave, al di là dei giudizi morali, cioè sta pregiudicando non solo i rapporti con l'Europa, con l'Occidente, ma sta pregiudicando anche la propria posizione nei confronti dei paesi post-sovietici, che in parte stava traendo nel suo progetto prima di unione doganale e poi di unione politica eurasiatica. Ecco, Ferrari, io le chiedo di aiutarci a capire, perché lei se ne intende e secondo me questo è importante. Noi abbiamo una nostra visione, diciamo così, molto occidentale su quello che sta avvenendo in Ucraina. In realtà, per un russo, l'Ucraina è parte del suo territorio a tutti gli effetti. Ma perlomeno del suo territorio mentale, storico-culturale. La Russia parte da Kiev, parte dai territori che oggi sono considerati ucraini. È molto difficile nella prospettiva politica, ma anche storico-culturale e psicologica russa, considerare l'Ucraina qualcosa al di fuori. Quindi per noi questo è difficile da capire, probabilmente è inaccettabile dal punto di vista del diritto internazionale, ma è sempre bene capire la mentalità dell'altro, in questo caso della Russia. Per la Russia l'Ucraina non è qualcosa di completamente esterno a sé, ma piuttosto una componente che si vuole mantenere legata anche politicamente oltre che culturalmente. Grazie ad Aldo Ferrari, docente di storia e istituzioni dell'area turco-caucasica e di storia della cultura russa alla Ca' Foscari di Venezia e ricercatore dell'ISPI, buona giornata. Altrettanto, grazie. Noi adesso, ve l'avevamo annunciato, è arrivata questa mattina una condanna per Beppe Grillo. La vicenda è ancora quella famosa della rottura dei sigilli nell'area della TAV. 4 mesi di reclusione e 100 euro di multa, tanto è costato a Beppe Grillo il suo ingresso nel dicembre 2010 nella baita dei Notav, che era stata sottoposta a sequestro a Chiomonte in Val di Susa. Il leader politico del Movimento 5 Stelle è stato riconosciuto colpevole di violazione dei sigilli dal giudice monocratico di Torino Elena Rocci. Stessa condanna è stata inflitta anche ad Alberto Perino, leader storico dei Notav. Nel complesso sono 11 le persone condannate, 10 invece quelle assolte. La pena più alta, 9 mesi, è andata a Giorgio Rossetto, altro leader del movimento antagonista che si oppone alla realizzazione dell'alta velocità ferroviaria fra Torino e Lione. La procura aveva chiesto condanne a 9 mesi per Grillo e Perino e fino ad 1 anno e mezzo per gli altri imputati. Dall'ex comico per ora nessun commento. Aspettiamo le motivazioni della sentenza e valuteremo se fare ricorso, fa sapere invece il suo legale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio ora, in vista dell'impegno della nazionale e con la coda naturalmente della giornata di campionato di ieri. Ci pensa il caso Chiellini a surriscaldare il dopogara di Milan-Juventus e la vigilia dell'amichevole di lusso tra Spagna e Italia, mercoledì al Calderon di Madrid. Non piace alla Juventus la convocazione senza neppure una telefonata di preavviso da parte del CT Prandelli, almeno a sentire la versione bianconera, del difensore reduce da un fastidioso infortunio muscolare, come spiega l'amministratore delegato dei campioni d'Italia Beppe Marotta. Chiellini reduce da un infortunio abbastanza lungo, serio. Non pensavamo che potesse essere convocato, quindi auspico che magari nel futuro ci sia maggiore comunicazione tra le parti, fermo restando il grande rispetto che la Juventus ha verso la nazionale. Intanto la Spagna si avvicina, out Balotelli, Prandelli chiama in attacco il romanista destro e il granata Immobile alla prima convocazione, come l'italo-argentino del Parma Paletta. Tornano nel giro azzurro anche il portiere genuano Perin e il terzino milanista De Sciglio, mentre il pugno a Icardi costa la convocazione al romanista De Rossi, in attesa che il giudice sportivo dica la sua, magari avvalendosi della prova TV. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora in primo piano le tensioni in Ucraina e in Crimea. La Russia ha preso il controllo della Crimea e la Gran Bretagna dice Mosca dovrà pagare un prezzo, mentre l'Italia dice proviamo a tenere aperto il dialogo. Sorrentino cita le sue fonti di ispirazione nel ricevere l'Oscar per la grande bellezza. È il miglior film straniero e le fonti di ispirazione sono Maradona, Fellini, Scorsese e i Talking Heads. Governo ancora in tensione sulla nomina di Gentile a sottosegretario. Il senatore NCD avrebbe fatto pressioni perché un giornale non pubblicasse la notizia di un'indagine. È il momento della borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata di borsa naturalmente fortemente collegata a quello che sta succedendo a livello internazionale e in Ucraina. Fin dalle prime battute di questa mattina, quando, come già si diceva prima, la Banca Centrale Russa ha alzato il tasso di interesse di 1,5 percentuale, portandolo al 7% nel tentativo di frenare una caduta del rublo pesantissima, caduta che però in realtà è proseguita. Pesantissima Mosca, pesantissima Milano, FTSE MIB meno 2,5%, FTSE OCR meno 2,5%. 5,5, altrettanto Francoforte giù di 3 punti percentuali. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Naturalmente è tutto concentrato su questo al momento. Eh sì, Simone, la crisi ucraina che fa paura ai mercati e gli investitori si rivolgono ai beni considerati difensivi come oro, titoli di Stato tedeschi, franco svizzero e yen, e abbandonano le attività considerate più rischiose come le borse e i mercati emergenti. Così giù i listini azionari con ribassi generalizzati in tutta Europa, particolarmente penalizzato il settore bancario. Lo Stoxx europeo dei bancari cede il 2,27%, quello italiano il 2,35%. Il titolo peggiore sul FTSE MIB è Buzzi Unicem, cede un 5,7%. Ci sono motivi particolari, Isabella? Sì, Buzzi aveva corso molto nelle ultime settimane, cede adesso il 6%, il titolo è anche, la società è anche esposta sull'Ucraina ma anche sulla Russia, ha due stabilimenti in Ucraina, uno in Russia, e questo contribuisce alla flessione del titolo, come l'esposizione in Ucraina contribuisce alla flessione di Unicredit e Intesa San Paolo, che cedono rispettivamente il 3,4% e il 2%. Tiene Terna meno 0,05%. Sì, tiene Terna, e fra i titoli che vanno meno male c'è tutto il comparto energetico. Grazie Isabella Tasso di Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E oggi ce lo consentirete il gioco, vogliamo giocare tra la grande bellezza e la grande bruttezza, nel senso che vogliamo parlare del film che ha così gloriosamente vinto l'Oscar come miglior film straniero, ritraendo una capitale in decadenza e una capitale che sta soffrendo, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, anche da un punto di vista economico e finanziario e non solo. Da quel punto di vista è anche un'occasione, se volete, per iniziare a aprire un dibattito su Roma. I vostri contributi, se volete, effettogiorno@radio24.it. Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, co-presidente del Partito Democratico Europeo, presidente del Movimento Alleanza per l'Italia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, l'abbiamo chiamato un po' di ritardo rispetto al preventivato, ce ne scusiamo. Nessun problema. Benissimo. Allora, voglio capire da lei un attimo, appunto, da ex sindaco di Roma, come legge questo momento della capitale. Abbiamo iniziato questa sorta di piccolo viaggio, continueremo a parlarne nella nostra trasmissione perché, insomma, stiamo parlando non solo della capitale ma anche di una città di 4 milioni di abitanti, quindi discuterne è importante. La coincidenza tra questo momento, se vogliamo anche una celebrazione di Roma, quantomeno nelle immagini, e quello che sta succedendo. Vorrei capire come la legge. Intanto mi pare che la vittoria di Sorrentino, del suo film, sia un grandissimo riconoscimento all'arte cinematografica italiana, all'industria cinematografica italiana. E si è anche criticato il film di Sorrentino, e questo è del tutto assurdo, perché solo chi non avesse visto le sue creature precedenti, il Divo, può immaginare che il suo modo di fare cinema sia di dipingere fotograficamente gli oggetti e altrettanto fotograficamente i contesti, i paesaggi, altrettanto fotograficamente la realtà. Non è arte, è un linguaggio speciale, e dunque la grande bellezza che affiora da questo film porterà a Roma un sacco di turisti. È un incanto straordinario. Benissimo, ma l'immagine di decadenza di Roma che dà questo film ha certamente degli elementi fondati, anche se sono caricati nella sceneggiatura. E però il punto è: in che città li porta questi turisti? Cioè, in una città in quali condizioni? Abbiamo raccontato tutto quello che è successo dopo quel diluvio, per carità, terribile, però di fatto c'è stato un intero quadrante della città completamente bloccato per settimane, sostanzialmente. L'annoso problema delle buche, delle quali anche lei ha provato ad occuparsi, la situazione finanziaria della città, che insomma esce anche sui giornali per essere sull'orlo del default, poi non sarà esattamente così, però la sostanza è quello che esce sul New York Times e sui giornali internazionali, è questo, insomma. Ma guardi, intanto mi permetta di ricordare che io rispondo tra virgolette del governo di Roma nei 7 anni che vanno dal 94, sono stato eletto a dicembre del 93, rieletto poi nel 97 fino alla 2000, quando poi ho lasciato il Campidoglio. Quindi parliamo di più di 20 anni fa, e dunque quello che c'è da analizzare, purtroppo analizzato in maniera un po' seria, cosa che temo non avvenga oggi. Le faccio un esempio, però, perché non voglio fare polemiche con le amministrazioni attuali o discussioni inutili su Diamarcord. A proposito dell'alluvione, io ho visto che l'amministrazione civica ha tirato fuori una cifra sui costi, sui danni, meglio, arrecati dall'alluvione, che era di oltre 243 milioni di euro. Io non so da dove scaturisca questa cifra, non so quale ne sia il fondamento tecnico, non so quale ne sia la valutazione tecnico-amministrativa. Mi pare una cifra tirata lì, e allora ecco, siamo un po' alla mercé di cifre tirate lì. Perché ma le sembrano un po', Rutelli. Roma, mi perdoni, però sì, Roma prego. È di una qualità dell'amministrazione, della riforma dell'organizzazione della città, che mi sembrano particolarmente urgenti. E in più, di quanti soldi dispone Roma? 8 miliardi? 9, 5, 10 da spendere ogni anno per partite correnti e per investimenti? Beh, va programmato dentro questa cornice di disponibilità quello che si può effettivamente fare e non quello che non si può fare. C'è un po' di dilettantismo all'amministrazione, dice lei, in sostanza. Ma diciamo che non esiste, a mio avviso, oggi una chiara direzione di marcia. Cioè, quando io ho iniziato a fare il sindaco, la situazione era peggiore, non migliore. Erano stati arrestati 6 assessori, erano stati arrestati i presidenti di tutte le aziende che erano commissariate, tutte. E noi abbiamo iniziato, non io da solo, che pure avevo avuto sono stato il primo sindaco eletto, diciamo, dai cittadini, ma con un gruppo di persone formidabile, di decine di persone, ognuna delle quali si era preparata al lavoro che avrebbe dovuto fare e lavorava in squadra, diciamo, con tutti gli altri, e verificava costantemente, anche con le critiche, anche con le polemiche, perché non è che le cose si facciano facilmente, a delle riforme profonde. Noi abbiamo ristrutturato tutto. Le faccio un esempio: la SEA è diventata una società per azione, l'abbiamo parzialmente dismessa, abbiamo ricavato 2.300 miliardi di lire, perché conto che il mio governo è tutto lì, quindi tutti i riscontri in euro sono impropri, perché non c'era ancora la moneta l'euro, europea. Certo. Abbiamo ricavato questi soldi per fare cosa? Per fare investimenti e portare servizi, fognature, illuminazione, depurazione delle acque in periferia. Le tenga conto che quando io ho cominciato a fare il sindaco, delle acque reflue di Roma, poco più della metà erano depurate. Quando ho smesso di fare il sindaco, oltre il 90%, un lavoro immenso. Era depurato. Rutelli, mi scusi se la interrompo, perché abbiamo veramente ancora 30 secondi. Le voglio chiedere molto brutalmente. 30 secondi per 7 anni sono pochi. Lo so, questo lo capisco. No, però vorrei sì, questo sicuramente, però vorrei capire, ma secondo lei Roma è una città in decadenza effettivamente? Guardi, Roma conosce come fondamentale difficoltà che ha un crollo della produzione, ha meno imprese, meno occupazione, servizi più critici e infiltrazioni illegali e talvolta anche criminali, ed è complessivamente più depressa. È molto cambiata. Le do un'ultima cifra, forse. Quando io ho smesso di fare il sindaco, a Roma c'erano più di 200.000 imprese attive e c'erano quasi 100.000 occupati in attività manifatturiere. Sa che vuol dire? Vuol dire che è cambiato enormemente questa città, ma non può essere, lo dice chi ha costruito l'auditorium, chi ha creato 30 nuovi musei nella città, o ristrutturati o nuovi, non può essere solo cultura e turismo, su cui ho puntato enormemente, il volano per lo sviluppo economico di questa città. Quindi è necessaria una riflessione che tenga conto, come l'ho detto, dei quattrini disponibili, delle riforme necessarie per far funzionare i servizi e degli indirizzi su che cosa sarà questa città, su cosa dovrà vivere e come presentarsi al mondo negli anni a venire. Grazie a Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, poi ho scordato, anche ex ministro dei beni culturali, che anche in quest'ambito, in questo ragionamento conta. La ringrazio, buona giornata. Grazie, buon Ci fermiamo, o meglio, non ci fermiamo in realtà, cioè abbiamo l'inchiesta di Daniele Biacchessi di oggi, dedicata alla questione della mafia e a questo scambio epistolare tra Renzi e Saviano. In un paese normale non spetta ad uno scrittore come Roberto Saviano rilanciare la politica di contrasto alle mafie nel nostro paese. In un paese normale la lotta alle mafie e alla corruzione dovrebbe essere, insieme al rilancio dell'occupazione e dell'economia, un bene comune da difendere. Invece no. Invece un intellettuale ha dovuto ricordare al neo premier Matteo Renzi che senza il contrasto alle organizzazioni criminali non ci può essere crescita, perché in grandi parti del nostro paese lo Stato non c'è e il controllo del territorio appartiene ancora ai boss. È così in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, è così nell'Interland milanese, in molte città dell'Emilia-Romagna, della Liguria, del Veneto, negli ultimi anni ai primi posti delle classifiche dei beni confiscati alle mafie. Dunque Saviano ha chiesto a Renzi di aggredire il tesoro dei clan, almeno 170 miliardi l'anno, una enormità, il 10% del PIL, qualcosa in grado di sistemare le casse dello Stato, azzerando il debito pubblico in pochi anni. E Renzi gli ha risposto in 5 punti: aggredire i patrimoni mafiosi, una giustizia più veloce, la certificazione antimafia, la riforma dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati, i dissesti provocati dalle mani mafiose negli enti locali. Si tratta di un'agenda ambiziosa, composta da ottimi provvedimenti annunciati che però sono insufficienti. La certificazione antimafia non serve a offrire legalità, perché nella sola periferia di Milano, tra Buccinasco, Cossico e Trezzano, molte piccole aziende che si occupano di movimento terra sono gestite dall''ndrangheta, perché in Campania e in Calabria non si contano gli appalti pubblici a rischio di infiltrazioni delle cosche dei clan camorristici e delle 'ndrine. I patrimoni mafiosi non vengono aggrediti perché i boss gestiscono gli affari sporchi direttamente dal carcere e addirittura minacciano i magistrati, come confermato recentemente dalle intercettazioni ambientali su Totorina. Oggi serve un balzo in avanti, un cambio di passo, una sorta di rivoluzione. Mettere la lotta alla mafia tra i primi punti dell'agenda del governo. Oggi soprattutto c'è bisogno di una cultura della legalità diffusa, ed è questo il punto centrale della lotta alla mafia. Senza questo scatto qualsiasi risposta legislativa sarà inevasa, esattamente come nel passato. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And the Oscar goes to The Great Beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Avete sentito l'annunzio, la grande bellezza ha vinto il premio Oscar e il primo film italiano a vincere la statuetta in 15 anni. Avrete sentito ormai questa notizia ripetuta varie volte nel corso della giornata, ne parlerò più avanti con Antonio Monda, ma vorrei darvi anche un quadro della situazione, chi ha vinto e chi ha perso. Gravity ha fatto L'Amplan, questo film che si passa nello spazio, devo dire, non mi ha particolarmente colpito, ha avuto la bellezza di 7 premi, migliore regia, migliore colonna sonora, fotografia, film editing, migliori effetti speciali, in effetti quelli erano molto buoni, miglior sound editing, miglior sound mixing, ecco, molti premi tecnici ma che comunque fanno massa. Insomma, questo Gravity ha fatto una incetta, 3 premi a 12 Years a Slave, 12 anni schiavo, miglior film intanto, migliore attrice non protagonista Lupita Nyong'o, una keniota molto bella che ha studiato tra l'altro a Yale, al Drama School di Yale, miglior sceneggiatura non originale, 3 premi anche a Dallas Buyers Club, miglior attore protagonista Matthew McConaughey, che in effetti è stato bravissimo, miglior attore non protagonista a Jared Leto e migliore Make Up, e poi vari altri premi, ve ne segnalo uno in particolare, a Great Gatsby, Catherine Martin per i migliori costumi. Beh, i costumi li ha fatti per la parte maschile Brooks Brothers, che è controllata da una famiglia italiana e controllata da Claudio Del Vecchio. Sempre sull'Italia, premio alla carriera Piero Tosi, costumista del Gattopardo. Nessun premio, devo dire, mi ha deluso parecchio, a American Hustle e Captain Philip. Un altro dato: con la vittoria del film di Paolo Sorrentino, il nostro paese a questo punto ha accumulato 11 Oscar come miglior film straniero. Ecco, ho con me ai microfoni di America 24 Antonio Monda proprio per chiacchierare di questa vittoria della grande bellezza. Buongiorno Antonio. Buongiorno a te Mario. Allora, la grande bellezza ce l'abbiamo fatta. Ma guarda, l'immagine finale degli Oscar è stato Steve McQueen che saltava dalla felicità. Dovremmo farlo tutti, perché sono 15 anni che un film italiano non vinceva. L'Italia ritorna a prendere la statuetta con un film ambizioso, importante, di cui parlano tutti, qualunque sia il giudizio. È un momento importante per la nostra cinematografia. Ecco, c'è qualcosa in questo film che, devo dire, ha scatenato delle reazioni proprio in Italia, stranamente, di resistenza. Sì, è inutile negarlo. La reazione italiana è stata molto più tiepida, non voglio dire fredda, ma tiepida certamente di quella americana o internazionale. Io sostengo che ci sono due motivi diversi. Innanzitutto l'ambizione enorme, grande di Sorrentino. Lui non è stato tiepido, ha puntato in alto, ha voluto paragonarsi a Fellini, alla Dolce Vita, a Satyricon. La seconda, più insidiosa e che ha scatenato delle cose anche antipatiche, è che è un film coraggiosamente politicamente scorretto, che dice che per esempio la sinistra dei salotti è insopportabile, è vuota, che dice che il mondo dell'arte è fasullo, attacca una certa curia, cioè dice delle cose molto molto pesanti, e spesso all'interno di questo mondo, non mi riferisco ovviamente alla curia, ma ai salotti sì, all'intelligenza sì, ci sono i critici che scrivono, e questo è una cosa che usciti dall'Italia non si è più verificata. Ecco, c'è una cosa che devo dire mi ha colpito di questo film, non so se sei d'accordo Antonio, cioè è che è un film anche di redenzione, cioè questo personaggio appunto si stacca da un certo conformismo un po' cinico, questo modo di essere molto materialisti, e poi a un certo punto trova la sua strada, la redenzione è di un uomo che si innamora per la prima volta, che torna a scrivere, che si accorge che il personaggio che guardava con un certo timore in realtà era un grande truffatore, un faccendiere, viene arrestato. Ecco, non c'è forse un messaggio, come dire, di speranza anche per l'Italia? Cioè, cambiamo pagina con questo film. Auguriamocelo, ovviamente. Un segnale certamente buono per l'Italia anche come messaggio, non solo come successo in sé. La redenzione di cui parli va letta anche in tante maniere, passa attraverso la figura di una santa, un po' ispirata a Madre Teresa, no? Tutta sostanza e nulla e nessuna forma, una donna con i denti rovinati, che non mangia, che dice che bisogna ritornare alle radici, che è l'unica cosa di cui lei si ciba. E poi è uno scrittore che è ispirato a un grande scrittore italiano, che è Dudu La Capria, napoletano, anche lui un po' denti, un po' gagà. Qui lui ritorna a scrivere riscoprendo la bellezza, la purezza, la grazia che sembrava aver dimenticato. Ecco, Antonio, brevemente, vediamo gli altri film. Io devo dirti, sono rimasto un po' deluso perché c'è stata un'incetta, ne abbiamo parlato poi anche in passato, un'incetta di premi di Gravity e poi di 12 anni schiavo. Sono questi film che hanno dominato. Sei d'accordo con questo giudizio? No, neanche un po'. Avrei preferito gli altri due nominati, gli altri due forti nominati, cioè Wolf of Wall Street e American Hustle. Nessuno dei due ha vinto nulla di significativo. Questo non significa che Gravity e 12 anni schiavo siano dei brutti film, tutt'altro. E almeno da un punto di vista tecnico Gravity meritava alcuni dei premi che ha vinto. Ma sfido chiunque a dire che Cuarón, che è un buon regista, possa essere paragonato a Scorsese. Ecco, ma è questo che ti chiedo. Ma come mai è successo questo? Perché c'è stata una forte leva di potere, per esempio, di un produttore rilevante come Hyman, come David Hyman. Ecco, perché cose ci sono sempre, come sai, ma non è l'unico elemento. Come nel caso di Sorrentino, il film di Scorsese ha degli elementi urticanti, in questo caso nel paese d'origine, quindi gli Stati Uniti. È un film dove invece la redenzione, ne parlavamo prima, non c'è, o comunque c'è in maniera molto molto più indiretta. È un film che, pur non volendo assolutamente celebrare quel tipo di vita, ma non ha la scorciatoia e il moralismo della condanna. È un film un po' strano, un po' spiazzante, e questo ha allontanato i votanti che sono un po' conservatori e un po' retro. American Hustle è stato giudicato probabilmente troppo un giocattolo, ben fatto e niente più, secondo me meritava di più. Mentre i due film che hanno vinto, 12 anni schiavo, è un forte messaggio, certamente molto potente contro l'abominio della schiavitù, e vince più il messaggio che il film. Gravity è un film di fattura, innegabilmente fatto molto bene. Io non ho nulla da eccepire sugli Oscar tecnici, montaggio, fotografia, effetti sonori, effetti speciali. Regia un pochino una forzatura, e meno male che ci siamo fermati lì. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ha vinto come miglior canzone originale Let It Go di Idina Menzel per il film Frozen, che tra l'altro ha anche vinto il premio per miglior lungometraggio animato. Di Idina Menzel, Let It Go. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento. A domani, goodbye and get going. America 24. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Fagini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno a radio24.it. Una buona giornata da Simone Spezia.